La partita sull'incenerimento dei rifiuti e sulla gestione dei rifiuti in Campania si è riaperta clamorosamente ad Acerra il 17 agosto, quando i cantieri per l'inceneritore nel piccolo comune delle Porte di Napoli sono stati aperti mano militari, con un'occupazione quasi militare della cittadina da parte di Ruspe, scortate da polizia e carabinieri. Da quel momento la popolazione ha cercato in tutti i modi di bloccare i lavori e ha convocato per ieri, domenica 29, una manifestazione nazionale, a carattere nazionale, che doveva arrivare fino davanti al cantiere. Il corteo è stato enorme, 30.000 persone, soprattutto gente di Acerra e dei paesi delle comunità limitrofe, molto motivati ad arrivare fino in fondo. Infatti è successo che alla fine del lungo corteo, circa 4 chilometri, che hanno attraversato il paese e poi hanno attraversato le campagne intorno ad Acerra, si è arrivati al cantiere e lì il sindaco Spedito Marletta, che è stato eletto sulla scia delle mobilitazioni contro le sue mobilitazioni contro l'inceneritore con moltissimi voti, che quindi ha questo impegno scritto nel suo programma di governo della città, e ha tenuto un breve comizio in cui sostanzialmente affermava di non voler cadere in provocazione, invitava la gente a non cadere in provocazione. A quel punto è successa una cosa che potremmo definire straordinaria, cioè la gente ha trascinato letteralmente il sindaco con tanto di fascia tricolore davanti ai cordoni di guardia di finanza e polizia in assetto antisommossa, e lì hanno cercato di fare pressioni per entrare dentro il cantiere. La reazione della polizia è stata molto violenta, sono stati lanciati su un corteo che era fatto essenzialmente da famiglie, moltissimi bambini e anziani del posto, tantissimi lacrimogeni, e sono seguite varie cariche. Qui insomma c'è stata una risposta anche abbastanza dura, benché disorganizzata, da parte degli abitanti di Acerra. Il bilancio finale è di 4 arrestati, moltissimi fermati e di una qualche decina di feriti tra i manifestanti per le botte ricevute dalla polizia. Ma la cosa interessante è che a questo punto, come hanno detto i rappresentanti dei comitati contro l'inceneritore del sindaco di Acerra, Marletta, la partita si sposta contro il governo, si sposta a voler dialogare direttamente col governo. Perché questo? Perché il commissario straordinario per l'emergenza rifiuti, Corrado Catenacci, della Campania, ha passato la palla al governo, praticamente non riuscendo più a gestire la cosa, dicendo che lui sostanzialmente fa quello che gli dice il governo. Quindi i comitati hanno deciso di voler parlare direttamente col governo, e già da prima del corteo. Quindi possiamo considerare essenzialmente la risposta violenta alla manifestazione di ieri come la prima risposta del governo alle mobilitazioni contro l'inceneritore, contro questo piano dei rifiuti della Campania, che non parla di raccolta differenziata, di riciclaggio e di riuso, ma parla essenzialmente solo di incenerimento e smaltimento in maniera molto inquinante dei rifiuti in Campania. I prossimi passaggi, c'è da supporre, saranno essenzialmente rivolti direttamente nei confronti del governo, che ha trovato un osso molto duro sicuramente. Acerra ha una tradizione di lotta per il lavoro e di lotta anche per la difesa dell'ambiente molto radicata, il corteo di ieri l'ha dimostrato, quindi sicuramente ci sarà, insomma, sarà un osso molto duro per il governo, nonostante la dura depressione che gli acerrani hanno subito ieri.